con Silvana Profeta, regista del documentario Senza Rossetto, che sarà presentato a Roma all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico mercoledì 30 gennaio 2019. Silvana, ben trovata. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Ci racconti un po' di questo lavoro? Sì, dunque, il progetto nasce nel 2016. È stato pensato da me e Emanuela Mazzina. Volevamo fondamentalmente raccogliere le voci, le testimonianze di donne che avevano votato per la prima volta nel 1946, insomma, dopo appunto la fine della guerra, dopo la dittatura. Volevamo capire, insomma, come questo momento l'avessero vissuto, come fosse cambiata la loro vita, la percezione di sé da quel momento in poi. E quindi abbiamo iniziato in modo molto semplice, in effetti, a contattare signore molto diverse attraverso amici, conoscenti. Volevamo di fatto raccogliere le testimonianze di donne semplici, insomma, che non avessero avuto coinvolgimenti politici. Volevamo capire come donne che magari non avevano fatto la resistenza, quindi non avevano un percorso politico inquadrabile, avessero vissuto quel momento. Quindi da lì abbiamo cominciato e diciamo da 2 anni stiamo raccogliendo testimonianze. Poi per gemmazione diciamo che io ho realizzato un corto sempre nel 2016 che abbiamo presentato al Festival Immagine Donne di Firenze e quest'anno invece ho realizzato insieme alla montatrice Milena Fiore un mediometraggio di 52 minuti circa che appunto verrà presentato il 30 all'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico. Senti, quante testimonianze avete raccolto? Abbiamo raccolto 27 testimonianze, insomma c'è da pensare che sono donne ultra novantenni se non centenarie. Quindi insomma non è stato facilissimo trovare donne che avessero comunque a parte la voglia ma anche la lucidità Sì. per raccontarci quei momenti. Però devo dire che tutte sono state molto, davvero in grado di raccontarci 2 decenni, diciamo. Noi eravamo partite con volere lavorare proprio sul voto del 46, quindi sul voto amministrativo prima del marzo del 46 e poi su quello politico e sul referendum a monarchia repubblica che appunto avvenne il 2 giugno del 1946. Poi in effetti incontrando le signore, peraltro abbiamo incontrato solo una volta e quindi insomma abbiamo cercato di costruire al momento proprio un contesto comunque di affinità reciproca, di empatia e soprattutto di fiducia, ecco. Però si sono sempre mostrate accoglienti e in grado veramente, soprattutto a noi, di metterci nelle condizioni appunto di rilassatezza per poter affrontare questa discussione. Comunque dicevo che siamo partite dall'idea di voler lavorare appunto sul voto, sul diritto di voto e sulle sue ricadute, sia da un punto di vista intimo, personale, che sociale, collettivo, ma ci siamo rese conto che spessissimo questo non era l'evento che a loro era rimasto nella memoria, insomma, in modo determinante. Quindi abbiamo lavorato comunque fondamentalmente a partire dalla loro infanzia, da come avevano vissuto, dalla loro famiglia, dal loro contesto familiare, dalla loro educazione, da cosa si ricordavano del fascismo, dalle scuole. E quindi, insomma, piano piano siamo arrivati a quel momento a ricostruire gli anni che avevano preceduto appunto quel momento lì. E insomma, devo dire che è stato effettivamente molto interessante, cioè lavorare in questo modo, no? Lavorare nel tempo, attraverso il tempo. Peraltro appunto tutte le donne sono donne molto diverse tra loro, appunto per geografie, per contesti socioculturali, per visioni del mondo, insomma, quindi è stato molto interessante capire la diversità dei loro sguardi sul mondo e su come avessero vissuto quel momento lì, appunto sul diritto di voto e su quello che per loro ha significato.